Toccoli Agnese, nata 22 del 2 del 33 a Pietramurata di Roma, figlia di contadini, quell'anno era il 33, era anni magri e si lavorava a campagna, io andavo a pascolo con le mucche, prima di andare a scuola, poi portavo a casa le bestie, poi si andava a scuola, poi la sera si andava ancora a pascolo un'altra volta perché le bestie mangiano quando c'era. La sera si studiava, si faceva i compiti dopo cena. Noi non abbiamo fatto le superiori perché non c'erano qui da noi. Abbiamo fatto 2 anni di terza, 2 anni di quarta, 2 anni di quinta. Siamo andati fuori senza medie perché da noi non c'era. C'era Dro, ma non era i mezzi da andare. E allora, quando si è finita la scuola, bisognava andare a lavorare in campagna o negli alberghi a lavorare. Poi ho cominciato ad andare a fare le stagioni, andavo in Madonna di Campiglio, alla cameriera, ho fatto 6 o 7 stagioni lassù. Poi mi sono presa un ambiente, ho preso un bar e mi sono sempre messa a lavorare. Ho sempre lavorato per 40 anni. O a Madonna di Campiglio, o andavo in Pineo a fare le stagioni, insomma. Perché le famiglie, eravamo 6 fratelli, papà e mamma. A 22 anni mi sono sposata, ho avuto 3 figli, grazie a Dio, tutti bravi, sani, 7 nipoti, 3 pronipoti, oggi. Oh, oggi sono bisnonna. L'anno prossimo faccio 60 anni di matrimonio. Quel periodo ricordo che nel 55 mi è morta una sorella di 25 anni. Avevo un ambiente qui, l'Enal, allora era il circolo Enal, che l'era messo da una trentina di soci, dopo la guerra subito mi sono sposata, dopo io sono andata ad abitare alle centrali perché mio marito lavorava in centrale del FIES, quella centrale qui giù, 11 anni. Cosa faceva il marito? Elettrico dentro nella centrale, era il capo squadra della centrale. Ha fatto 36 anni di Enel. Dopo la seconda guerra, sì, cambiamento della società, dice, poi hanno fatto la centrale a Santa Massenza, allora hanno fatto la SISM, non era più la SIT, che prima era la SIT, quando era mio marito c'era la, poi è diventato SISM, che faceva la centrale, poi è diventato Enel, oggi è 30, non è più neanche Enel. No, per noi è stata una fortuna, insomma, nelle date di lavoro, gli operai sempre stai continuo al suo lavoro, insomma, sua carriera, diciamo, finché dopo hanno chiuso le centrali adesso. No? Bagattoli Luciano, quello che ricordo della mia gioventù, che era la guerra come quella di tela, insomma. Mi ricordo che a scuola dopo si è andati all'asino. Alle fare le medie, perché loro era un gruppetto di benestanti, diciamo anche, diciamo, no? Un gruppetto di studenti, insomma, i migliori, e andavano a piedi all'asino, a scuola. Su la mattina, giù a mezzogiorno. Sul pomeriggio e giù la sera, no? 2 volte al giorno. 2 volte al dì. Venivano giù a disnar perché non c'era. Non era niente. Non c'erano i panini, ma non avevano i soldi da prenderli. Non era niente. Fortuna che venne un lassismo, che quella là sviluppa. Ha dato il lavoro, le famiglie. Una serie di benessere enorme. Ecco. È venuta la SIM del 50 quando hanno fatto la galleria a Santa Massenza. Tanta gente che è andata a lavorare a Santa Massenza, tante famiglie, che sta la fortuna, perché noi a Santa Massenza siamo vicini, insomma. Mi sono stato a lavorare alla posta. Piegato postale. Ho fatto 39 anni alla posta qui a Pietramurata. Il paese è quel che l'era, fatta eccezione di quella porzione al Maseto, dicevano al Maseto, all'Isere, insomma, che gli ha fatto 70 case adesso. Pochi contadini non erano. Lavorava tutti la campagna, si viveva lì, si uccideva un maiale per famiglia l'inverno per sopravvivere. Battere un po' di botter su di noce. C'era col litro, sì, c'era e veniva fuori un po' di botter. L'aveva in una vacca noi, ma si sapeva che era turnario, no? ogni tanti litri di latte se maturava la caserata, insomma. E quella volta era una sagra perché si tappava il formaggio e il burro. Perché si lavorava tutto a mano, non erano i trattori, C'erano i trattori, era tutto col burro, col cavallo. Qui che lo aveva. Perché lui mica aveva il cavallo. Voi altri sì. Mica aveva il cavallo. Andavamo a prendere il fieno, io e mia sorella, fino col carro, il cavallo, a Ponte Arche. Perché c'era il nostro proprietario della campagna, era il dottor Blegi. I prati erano là dentro, andavamo dentro col cavallo a prendere il fieno, io e mia sorella. Allora si partiva alle 4 di mattina e si tornava alla sera. Andavamo dentro perché gli uomini andavano in bicicletta perché andavano a tagliarlo, lo preparavano tagliato. Noi arrivavamo là, caricava il carro e poi noi partiva e venivano a casa. Loro finivano ancora di lavorare, poi ci raggiungevano con le biciclette e venivano a casa. Fu all'interno di Comano, era tutta strada bianca, passava una corriera o due. La verga era ciclabile. Qualche terra, camion. Il Turri e il Caula che veniva fuori da Pinzolo, veniva arriva al porto a cargare il zucchero, il riso, la pasta che veniva su dall'Italia. La strada bianca, quando li faceva, facevano un polvere da matti e noi eravamo. So che giovevano su quel dosso e così sentivano il rumore del camion del Caula, che era trazione a catena, ruote dure, fisse. No, copertoni no, le camere d'aria non erano. E sentivano il rumore, allora correvano via, arrivavano noi prima che passesse per vedere il camion. Ti ricorda i giochi che facevate, ovviamente non dopo la guerra, ma noi giochi ne avevamo molto pochi. I giochi volevano il cerchio del parol, paiolo, il cerchio, no? Allora che il torrivo in fora e faceva su una forcella e correva in drio, ecco, quella era. Noi facevamo bambolotte di pezza, con le pezze vecchie, facevamo su bambolotte, che facevano i vestitini, parevano a luciare, gli insegnava a luciare a scuola, facevano i campionari di tutte quelle maglie lì. A fare le stuoie con i sfoglioni, sapete che erano i sfoglioni? La fodera della pannocchia del grano turco, quelle pubere se le croseva, mettevano l'acqua calda perché le si ammorbidisce e facevano le stuoie, le borsette, un paio di fiaschi. Dov'è che giocavate qua in paese? Nei piazzali si giocava a squadre con ragazzi, la domenica si andava in vespro, dopo si giocava a palla. Insomma, al Pirlo. Poi neanche la bicicletta. Io dicevo, non vedo l'ora di sposarmi per comprarmi una bicicletta. A che età è arrivato il cinema qua in zona? All'oratorio. E dopo sono a mia casa. Che veniva il Francesco. Sarà stato 50. Come si chiama il Francesco? Quando era sulla sala da ballo, sta nel 50. 49. C'era una sala da ballo, un salone grande. E lì veniva fuori un salone e ballava, abbastanza grande, e allora veniva uno da Comano Terme a farne il cinema perché lui aveva le macchine, proiettore. La televisione è venuta nel 50 qui al bar Enal, nel 56 la televisione, la prima che era venuta in paese al bar, quando c'era allora San tutti Remo, quanti guardavano dentro la finestra Giro d'Italia, allora metteva fuori la televisione sulla finestra perché in casa non ve n'era da nessuna parte. Una volta ogni tanto la sagra. Quando la neva ben una volta a settimana, ma la sangra, la Pasqua e il Natale, ecco con gli avvenimenti lì, basta. Si chiudeva il ciclo dei divertimenti. Anche perché noi giovani non si aveva il permesso dai genitori finché non si era, per dire, mica aveva il musè, per esempio, ma non si poteva andare oltre, ci si trovava seduti sui muretti perché si andava al caseificio a portare il latte E allora se si trovava lì, o che se si trovava a granocchiare le pannocchie, a sfogliare le pannocchie la sera, c'era, dopo si cuoceva le castagne, divertimenti era quei, nonno. C'era tutti a livello. Non si sentiva la differenza fra l'uno e l'altro, nel senso anche della agiatezza, no, che ne era. Uno valeva l'altro, una famiglia valeva l'altro, sì, che era. La torre sotto c'è il rifugio, hanno fatto il rifugio in tempo di guerra, però ci si stava tutti. Noi andavamo fuori per la campagna, quando è caduto l'aereo eravamo fuori, l'abbiamo visto tutta la luce del sole e tre sono stati dentro bruciati, tre sono saltati fuori e il terzo si è salvato. Questo aereo ha bruciato tre giorni, l'aereo continuava a schioppettare, schioppo, c'erano i carabinieri. Dopo, quando è che è finito di bruciare, mia sorella e altri ragazzi, insomma, sono andati su e hanno... c'erano dei mucchietti di cenere dove è bruciato l'aereo, nella Carlinga, e ha trovato un braccialetto di oro bianco con la piastrina con scritto il nome Robert Pearson e Kansas City, l'indirizzo. Allora c'era tramite la Croce Rossa, che era bolognano di Arco, un prete è venuto a saperlo, insomma, e abbiamo dato questo braccialetto. Gli abbiamo mandato il braccialetto e l'ha mandato alla mamma di questo ragazzo. E quando sono venuti quest'anno, mi hanno fatto gli onori, mi hanno scritto questa lettera, insomma, sono venuti i parenti, nel paese ne hanno fatto una festa.